minuti, tutti al tempo, nel programma Senza Tempo. Tempo e musica senza orologi. Benvenuti anche quest'oggi. bim, pau, passa, cabaça, bim, pau, cabaça, arau, pacatu, pacatu, pacatu, catuta, pacatu, pacatu, pau, pacatu, pacatu, pacatu, catuta, pacatu, pacatu, passa, cabaça, pacatu, pacatu, pacatu, catuta, pacatu, pacatu, pau, pacatu, pacatu, pacatu, catuta, pacatu, pacatu, pau, pau, passa, cabaça, bim, pau, cabaça, arau. fanno notare che prima di aiutare il prossimo farei bene ad accertarmi delle effettive condizioni di bisogno dei miei beneficati. Per farla breve, dovrei stare attento alle fregature. È vero, spesso sono stato truffato, ma non per questo voglio diventare diffidente verso i miei simili. La diffidenza rende tristi, pone un limite a noi stessi. Totò. Radio Italia Network, e qui c'è Gigi D'Agostino, belle storie musicali in ogni momentino, se ascolti il programmino, se ascolti il programmino, questa radio Italia Network, e qui c'è Gigi D'Agostino, belle storie musicali ogni momentino, se ascolti il programmino.